Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. E anche questa settimana doppio appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori, questo è il primo, poi fra due giorni un altro argomento, il primo è già un doppio argomento, una doppia questione, ne parliamo con l'avvocato Gioia Barbato, ben trovata. Ciao Mirko, buongiorno a tutti. Dunque, doppio argomento, doppio caso, doppia questione. Il nome è Truffe Avron e Italia Programmi. Di Italia Programmi ricordo qualcosa perché ne avevamo parlato, mi pare, un anno fa, e giù di lì, quindi potremmo fare il punto. Avron invece mi risulta un nome nuovo, spiegaci tutto. Esatto, non sono altre che truffe che si stanno sviluppando online, quindi sul web, e la differenza fra queste due tipologie di truffe è che Avron riguarda tutti gli imprenditori, quindi sostanzialmente tutte le imprese, le persone giuridiche, mentre Italia Programmi, che poi adesso ha anche cambiato nome e è stata denominata Estesa Limited, è una truffa che riguarda esclusivamente i privati. Ecco, quindi parliamo sostanzialmente di programmi di software online con due tipi di clientela diversa potenziale. Sì, esatto. Allora, Avron è una sorta di truffa che si sviluppa nel web e è una truffa del registro del mercato nazionale ai danni soprattutto dei piccoli imprenditori e degli artigiani. Sostanzialmente tempo fa veniva inviata una lettera o raccomandata oppure una mail, quindi per quello si parla anche di truffa nel web, a tutta una serie di piccoli imprenditori, dove appositamente questa società, che è una società slovacca, evidenziava che nella loro pagina, nel loro registro delle imprese, c'erano tutta una serie di errori che potevano in qualche modo pregiudicare la loro attività e la loro entità sociale, e invitava questi imprenditori a compilare una sorta di format nel web per correggere tutta questa serie di errori. Una volta compilata questa maschera, insomma, che appariva nello schermo, questi imprenditori si trovavano a dover corrispondere a propria insaputa una somma per il servizio, una somma addirittura di ben 1.270 euro, e si trovavano ad aver stipulato, ignari di tutto, un contratto della durata di ben 3 anni. Cosa che evidentemente non era dichiarata all'inizio, cioè uno riceveva questa scheda che lo riguardava da verificare, da ricompilare, però di fatto sottoscriveva un contratto. Esatto, proprio così, ma tra l'altro la truffa sta anche nel fatto che questi errori che comparivano in questo registro non erano degli errori effettivi e quindi che veramente riguardavano quella società, ma erano degli errori che venivano inseriti appositamente dalla società slovacca per invogliare questi imprenditori ad aderire a questa iniziativa, e gli imprenditori ovviamente, pensando che si trattasse di un'iniziativa da parte della Camera di Commercio o anche addirittura da parte delle pagine gialle, provvedevano a compilare questa schermata e si trovavano a loro insaputa ad aver stipulato un contratto con una società tra virgolette un po' truffaldina. Ecco, su questo c'è già stato un intervento. Sì, c'è già stato un intervento, infatti l'autorità garante per la concorrenza e il mercato aveva sanzionato ancora tempo fa Avron al pagamento di una multa di ben 100.000 euro, proprio perché aveva immesso nel mercato delle pratiche di concorrenza sleale e soprattutto perché aveva utilizzato quella che viene legalmente chiamata pubblicità ingannevole, quindi aveva invogliato, tra virgolette, l'utente ad aderire ad un determinato servizio utilizzando una pubblicità non veritiera e quindi ingannevole. E quindi tanti si sono trovati appunto con questa fregatura, appunto questa truffa. Come è successo, e questi erano appunto imprenditori e artigiani, come è successo a tanti cittadini privati. Un caso che abbiamo già approfondito tempo fa è quello di Italia Programmi, che adesso dicevi ha cambiato nome. Sì, è un diciamo metodo che... anche questo, no? che usano queste società, di cambiare nome per sembrare di aver sistemato tutto. Sì, diciamo che adesso quando arriva a casa l'invito al pagamento, quindi il sollecito di pagamento, arriva da parte della società Estesa Limited, che non è altro però che una società che fa parte di Italia Programmi, quindi sostanzialmente sono tutta una serie di società controllate o comunque che operano in coordinamento fra loro, però la referente è sempre Italia Programmi, anche se nelle messe in more e nei sollecito di pagamento questo nome non compare più. Questa è una truffa, abbastanza analoga rispetto a quella di Avron, che però ha riguardato solamente i privati, i quali, navigando in internet, si trovavano a scaricare tutta una serie di programmi, parliamo di musica o anche di programmi per l'utilizzo del computer stesso, che venivano spacciati come programmi gratuiti, ma in realtà poi venivano fatturati ad un costo di ben 96 euro, che venivano poi questi solleciti poi venivano spediti a casa al privato stesso, il quale, intimorito dal fatto che comunque la lettera fosse anche solitamente mandata da parte di un ufficio legale, provvedeva al pagamento. E quindi, insomma, quando si muove in ufficio legale di solito uno alza le antenne oppure abbassa le orecchie e paga, ma in realtà queste cose non vanno pagate. No, assolutamente, vabbè, né Avron, che è, diciamo, la truffa di cui ho parlato prima, che riguarda gli imprenditori, perché assolutamente questa società di origine slovacca ha messo in piedi tutta una truffa solamente con la finalità di estorcere a questi imprenditori del denaro con l'inganno. Quindi assolutamente non va pagato nulla, quindi il consiglio di Adico è ignorare assolutamente tutti i solleciti di pagamento che provengono sia da parte di Avno sia da parte di Italia Programmi o Estesa Limited, perché è bene sottolineare che sono dei solleciti di pagamento che sono infondati, quindi non c'è alcuna causale, alcuna giustificazione al fatto che una persona debba sborsare del denaro. Ecco, e allora, se qualcuno avesse avuto a che fare con queste questioni, Italia Programmi, Italia-Programmi oppure Avron, può anche rivolgersi tranquillamente all'Adico per ulteriori delucidazioni. Grazie intanto, esatto, all'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale dell'Adico, appuntamento alla prossima. Grazie a te Mirko, ciao. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.